L'altra Europa. Benvenuti all'Altra Europa, siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro viaggio settimanale in Europa, un programma in collaborazione con Euronet, il network paneuropeo. Si cerca di dare voce a quella che è un po' la cultura europea, lo facciamo con tante voci, tante lingue diverse, tanti punti di vista diversi, attualità economica e politica che Radio 24 segue quotidianamente per capire dove va la nostra cara Europa. Noi cerchiamo il sabato anche di trovare altre sfumature, altre sfaccettature, cerchiamo sì di dare un senso, di dare concretezza, di dare contenuto a questa Europa. Le coordinate, siamo qui in diretta via SMS 349-238-6666, ci trovate anche su Facebook con la nostra pagina facebook.com/l'altra Europa che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare, oppure su Twitter @FedericoTaddia. Ci siamo ogni sabato, un viaggio, la prima tappa di oggi è l'Irlanda. The French drink wine, the English tea. The Yankee gods is hot black coffee. The child drinks milk 9 times a day. The Scotsman sips his whiskey toddy. You can keep your wine and keep your tea. My curse on him that gives me coffee. I'll a porter if I may. It makes me feel content and happy. Both the back down the bar. The gentry have their egg and livers. Water is all right in tea. Si intitola L'ultima pinta, un bel articolo che abbiamo trovato su Press Europe, l'ho già linkato in Facebook, preso dall'Irish Times. I pub, locali simbolo del paese, stanno chiudendo al ritmo di uno ogni 2 giorni. La colpa non è solo della recessione, ma anche dei cambiamenti culturali che hanno ridotto la vita sociale degli irlandesi. Questa è la tesi per capire, per avere una fotografia di quello che sta accadendo. Abbiamo invitato il professor Eric Haywood, insegnante di letteratura e lingua italiana all'University College di Dublino. Buongiorno Eric, benvenuto all'Altra Europa. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Ti do del tu, posso? Me lo sì, concedi, benissimo, grazie. Benissimo. Tu vivi in Irlanda da quanto? È da 35 anni più o meno, 35 anni. Ok, ma non sei italiano, giusto? Io sono di padre inglese e di madre svizzera, cresciuto in Svizzera, sì. Uh-huh. E come mai insegni letteratura italiana? Come è nato questo amore? Per caso, io ho fatto tutto per caso nella mia vita. E ho fatto domanda, ho trovato questo lavoro dopo gli studi e ho studiato in Inghilterra. Uh-huh. E poi ho trovato il lavoro qua e sono rimasto. Sono qua. Perfetto. E quindi insomma 30 anni è un bello spaccato, è una bella storia. È la mia vita quasi, da adulto, sì. Ecco, e insomma quindi tu puoi veramente raccontarci quello che sta accadendo. È vero, stanno chiudendo i pub? E veramente il pub è ancora uno dei simboli dell'Irlanda? Beh, no, penso sia vero perché lo dicono almeno le statistiche che stanno chiudendo, specialmente quelli un po' fuori. Non nei grandi centri, ma anche lì, ma specialmente quelli in campagna più direi. Mm-hmm. Simbolo di Irlanda lo è, penso lo è, lo sia soprattutto diciamo anche per gli stranieri, no? Gli stranieri tendono a vedere il pub come appunto il punto di riferimento per l'Irlanda. Ma credo sia vero, ma come dicevi tu, è un processo già in atto prima della crisi, no? Perché erano cambiati, la gente si è un po', diciamo, europeanizzata e quindi piace uscire per mangiare, andare in un caffè, tipo caffè francese, quelle cose lì. Ma i pub ci sono ancora. Certo, perché appunto la tesi che viene esposta dall'articolo è quella che tantissimi pub che sono nati in questi anni in verità di pub hanno ben poco, sono delle bettole, verrebbero così chiamate in italiano, e quindi comunque anche è vero che non reggono alla crisi, ma non reggono proprio a questo cambiamento culturale, nel senso che sì, il pub è dove si va per festeggiare dopo un matrimonio, dopo un funerale, però c'è la ricerca anche di altro, quindi non è solo una questione economica. Tu frequenti tantissimi giovani essendo professore, sì, e li hai visti anche cambiare in questi anni, quindi hai visto proprio cambiare anche l'approccio nei confronti del pub. Del pub, diciamo, è quello che non è che non vanno al pub, ci vanno meno direi. La gente, specialmente adesso con la crisi, quando si usciva durante il boom economico, si usciva quasi ogni sera ora si esce il sabato, il venerdì, e quello è un problema, credo, perché lo diceva anche l'articolo, che tanti pub chiudono per mezza settimana anche, ma non in città, direi. Okay. Quindi loro non è che non, ma però poi anche stanno molto più in casa, con gli amici, con la famiglia, che è diventata di nuovo molto importante, e con Facebook, Twitter, YouTube e quelle cose lì, direi. Quindi proprio una socializzazione anche diversa. Sì, ma, sì, sì, ma sì, al di là... Ridotta, diciamo, è diversa, ma anche ridotta, stanno più in famiglia in questo senso, direi. Mm-hmm. Ecco, perché una cosa è stare in famiglia, una cosa è stare su Twitter, nel senso che comunque vedi una tendenza a isolarsi di più, soprattutto nei giovani? Ma io penso che... Sì. Io con loro, no, direi di sì, chiedendo a loro, parlando con loro, questo, ma penso che in questo senso sia un po' la società occidentale sia un po' omogeneizzata in questo senso. Uh-huh. E quindi sì, senz'altro, però credo che ci sia più, come dicevo, che non è che non escono più, escono comunque, ma al weekend, se no stanno più in casa e con appunto in questo... Certo. Un mondo un po' più isolato, diciamo. Certo. Sì. Eric, ma per esempio se a livello universitario sono diminuite anche le iscrizioni a causa della crisi? No, questo no, anzi il contrario, perché non essendoci posti di lavoro vengono, e poi tutti dicono che è importante naturalmente avere la laurea, allora il numero anzi è aumentato e continuerà, crediamo, ad aumentare. E l'italiano attira? Attira, non è, beh, diciamo, sono gli studenti che studiano francese, sono più numerosi, anche tedesco, spagnolo, però noi all'università, diciamo, accettiamo principianti. Sì. Quest'anno sono gli iscritti, erano al primo anno, erano un 130, quindi non è male, per noi va bene. Ecco, ma cosa piace della lingua italiana, nel senso l'aspetto culturale, o comunque ci sono anche prospettive professionali che vengono ricercate dagli studenti che scelgono questo percorso di studi? Prospettive, certamente, perché per quello, diciamo, vengono all'università, però non prospettive, direi, specifiche, non studiano italiano più peraltro per amore, il francese lo studiano per tradizione, diciamo, perché è sempre stata la lingua più importante, tedesco perché pensano che ormai lì sono lì i lavori che si possono trovare, lo spagnolo perché c'è la Spagna, l'America Latina, tutta quella cosa. L'italiano è veramente per amore, direi, per interesse, e poi la speranza di trovare un lavoro non necessariamente in Italia, anche se gli piacerebbe, ma un lavoro dove possono usare la lingua, diciamo. Quindi in banche, qui ci sono tante banche italiane, ci sono varie ditte italiane, oppure semplicemente il fatto di aver imparato una lingua è considerato importante. Ho visto che la tua università ha appena dato una laurea d'onorem a Camilleri, sì, c'è, tutto, c'è il tuo zampino dietro a tutto ciò? Sì. Ok. Sì, sono molto orgogliosi, molto contenti. È venuto qua a dicembre, che non ama viaggiare, infatti. Ha 86-87 anni. È venuto ed è stato bellissimo, con la famiglia, amici, ed è stato proprio bellissimo. Bene, grazie davvero Eric per averci fotografato, dato questa fotografia della situazione irlandese. Ci ritroveremo sicuramente qui prossimamente all'Altra Europa. Ciao e buon lavoro. Grazie, buongiorno, ciao. Europost-it. Auguri Charles Dickens. Per i suoi 200 anni, Londra gli dedica una mostra. Proprio in questi giorni lo scrittore Charles Dickens avrebbe compiuto 200 anni. Ecco perché il Centro Studi Locali di Camden, il 7 febbraio, data di nascita del padre di Oliver Twist e di David Copperfield, ha inaugurato una mostra in suo onore. Si chiama Streets of Dickens e mette a disposizione del pubblico foto inedite, illustrazioni e documenti originali. L'obiettivo è quello di esplorare le tante connessioni tra il romanziere e il quartiere londinese di Camden, in cui Dickens stesso e molti dei suoi personaggi sono nati e cresciuti e dove sono state ambientate tantissime delle vicende da lui narrate. La mostra è a ingresso libero e sarà aperta al pubblico per tutto l'anno. Maggiori informazioni visitando il sito camden.gov.uk/localstudies. When votes aren't fairly won, but rather bought, this is corruption. When politicians don't make decisions to benefit the public, but rather themselves. This is corruption. Corruption by politicians or public officials is not just an envelope filled with money. These people make decisions that affect our lives. We know corruption is a problem around the world, but how can be done? Transparency International's Corruption Perceptions Index. È la corruzione in Europa, il tema scelto questa settimana da Euronet. Sono usciti dei dati in questi giorni su quella che è la percezione di questo grave problema all'interno dei paesi dell'Unione Europea, con livelli di corruzione che sembrano essere aumentati negli ultimi 3 anni. Questo è quanto risulta dal sondaggio di Eurobarometro pubblicato dalla Commissione Europea. Dai dati raccolti emerge che quasi 3/4 degli europei ritiene ancora che la corruzione sia un grave problema e che sia presente a tutti i livelli di governo, e l'8% dei rispondenti afferma di essere stato oggetto di richieste o di aspettative di tangenti nell'ultimo anno, quindi dati importanti, dati che vanno a minare un po' anche quella che è la credibilità o soprattutto la democrazia all'interno dell'Unione Europea, tanto che la Commissione sta agendo, sta prendendo decisioni importanti appunto per combattere la corruzione a tutti i livelli. Per capire meglio i dati di Eurobarometro e per capire anche quelle che sono le modalità in cui sta pensando di muoversi la Commissione Europea, abbiamo invitato Michele Cercone, portavoce della Commissione Europea per gli Affari Interni. Ciao Michele, ben ritrovato. Buongiorno, salve. Eurobarometro, questa lettura, questa fotografia che periodicamente viene fatta dalla Commissione su temi diversi, migliaia, mi sembra più di 20.000 gli europei che sono stati intervistati per questa ricerca all'interno dei 27 stati membri. Si parla di corruzione o si parla di percezione? Ci puoi fare una lettura di questo sondaggio? Beh, intanto si parla chiaramente di percezione della corruzione, questo non vuole essere un'analisi statistica della corruzione all'interno degli Stati membri per misurare la corruzione, è piuttosto un termometro per capire quello che i cittadini pensano e la loro esperienza diretta e personale quando si tratta di corruzione. Diciamo che ci sono alcuni dati salienti, li hai già illustrati, quelli principali, non mi soffermo. Quello che ci ha colpito molto è soprattutto un elemento che emerge chiaramente dall'Eurobarometro, ossia che sembra che ci sia, i cittadini, quasi il 70% degli europei e il 60% dei cittadini italiani, pensano che la corruzione sia inevitabile e che c'è sempre stata e che è qualcosa contro cui difficilmente si può lottare, cioè difficilmente può essere eradicata dalla cultura di un paese. Addirittura quasi 2/3 degli europei che pensano che la corruzione sia parte della cultura imprenditoriale del proprio paese. Questo dato ci ha davvero messi di fronte ad una realtà, cioè che è necessario soprattutto fare chiarezza e parlare in maniera diretta, trasparente ai cittadini e fare in modo che si sappia quali sono le politiche all'interno degli Stati membri che sono messe in atto, quali sono le contromisure contro la corruzione che i vari paesi dell'Unione Europea hanno adottato e intendono portare avanti e quali sono i risultati che questi paesi raggiungono. Tutto questo si condenserà in un grande sforzo di un rapporto che coprirà tutta la situazione della corruzione negli Stati europei, sarà una prima assoluta e la prima edizione di questo rapporto è prevista per il prossimo anno, naturalmente con grande attesa, perché andrà in parallelo agli sforzi già fatti da organizzazioni internazionali come Transparency International, si appoggerà anche ad alcuni dei loro dati, ma ci permetterà finalmente di avere una fotografia non più in bianco e nero e a tinte sfocate, ma a colori e con i dettagli di come funziona la corruzione in Europa. Insomma, questo dato di una sorta di rassegnazione, adesso chiamiamola così, che dà un po' l'idea, è preoccupante, perché veramente quando no l'abitudine diventa regola, bisogna cambiare le cose, ed è quello che insomma vi siete accorti anche voi leggendo i dati. A livello europeo ci sono nazioni dove questa percezione, la percezione della corruzione è comunque minima, cioè si può pensare a vivere senza dare per scontato che i politici o che comunque siano adesso i politici come classe dirigente, diciamo, in generale siano corrotti? Ci sono nazioni dove appunto questa cultura della corruzione è minore o non esiste? Guarda, abbiamo se vogliamo proprio fare la forchetta dei due picchi, abbiamo due paesi faro. Da un lato il paese in cui la percezione della corruzione è dilagante, siamo oltre il 95% per quasi tutti i temi proposti dal nostro sondaggio, è la Grecia. Cosa ci si poteva aspettare, vista anche la situazione difficile del paese, che chiaramente ha un impatto anche sulla percezione dei cittadini. Dall'altro lato, se vogliamo parlare di esempi virtuosi, ne abbiamo uno abbastanza lampante, che è la Danimarca, dove effettivamente sembra che la percezione della corruzione sia a livelli molto molto bassi, e un altro che è la Finlandia, in cui c'è stata una secca caduta della percezione della corruzione, soprattutto all'interno della struttura politica del paese, che si è dimezzata in pochi anni. Segno anche questo che quando le politiche vengono messe in atto e quando la corruzione viene combattuta in maniera chiara, trasparente, e quando questo viene percepito dai cittadini, c'è chiaramente una maggiore fiducia che si instaura, che non è soltanto un dato statistico, ma in realtà è un elemento fondamentale per tutto l'aspetto di un paese, da quello sociale a quello economico a quello imprenditoriale, perché effettivamente la corruzione rischia altrimenti di essere davvero un tarlo nascosto che corrode dall'interno i meccanismi di funzionamento economici, ma soprattutto che diventa uno strumento formidabile nelle mani della criminalità organizzata, soprattutto per fare i loro affari sporchi e per farli prosperare all'interno dei vari Stati membri, elemento a cui noi stiamo accordando grande importanza, perché il legame tra corruzione e criminalità organizzata vogliamo davvero cercare di romperlo, ed abbiamo a brevissimo, la settimana prossima, avremo un'iniziativa, una proposta per combattere, per migliorare la confisca dei beni e delle proprietà della criminalità organizzata, mafia e camorra. Abbiamo anche in vista un quadro legale europeo molto più forte, che permetterà di rendere più chiari gli appalti pubblici e di migliorare i meccanismi che servono a monitorare gli sforzi anticorruzione. Grazie allora Michele, anche perché la corruzione, oltre a minare quello che è il mondo economico, mina soprattutto la fiducia dei cittadini nei confronti dei politici, quindi è lì che bisogna lavorare anche per una nuova cultura, una nuova vicinanza tra i cittadini europei e chi li governa. Grazie, buon lavoro Michele, a te e a tutto il tuo team. Grazie, buon lavoro a voi. Rimaniamo però in tema, è stato citato da Michele questa associazione internazionale che opera da più di 15 anni nel settore della prevenzione della corruzione, della diffusione, della trasparenza. Diamo il benvenuto al presidente italiano Maria Teresa Brassioli. Ciao Maria Teresa, buongiorno. Ci vuoi presentare tu l'associazione? Sì, l'associazione Transparency International è nata nel 1993, quindi è relativamente giovane, però ha fatto dei grandissimi passi. In Italia è stata istituita nel 1996. E da allora combattiamo con gli strumenti elaborati da Transparency e soprattutto rendendo i cittadini consapevoli dei danni della corruzione. Diceva prima il nostro collega che la corruzione è risultata endemica in Grecia, e noi lo possiamo vedere dai nostri indici non solo in Grecia, ma dovunque prospera la corruzione prospera anche la povertà e naturalmente poi il non rispetto dei diritti umani, e quindi tutta una serie di sistemi per cui il paese degenera rapidamente fino ad arrivare ai minimi livelli di sussistenza dei cittadini. Ecco, ma voi lavorate a fianco dei politici e a fianco della politica, immagino che comunque... Allora, noi siamo un'associazione che ha sempre cercato di fare proposte. Naturalmente le proposte sono supportate da indicazioni e denunce, però il nostro obiettivo è fare proposte e cercare di farle implementare per cambiare la situazione. E questo ci sembra una modalità corretta, tant'è che siamo considerati tra i migliori think tank del mondo. E ci sembra anche che questo approccio dia dei risultati, perché poi non si può prescindere dal sistema in cui si opera. Peraltro l'Italia è anche abbastanza anomala in queste rilevazioni. Per esempio, sempre la Commissione europea ha dato mandato all'Università di Göteborg di analizzare la corruzione e il buon governo a livello regionale, sì, quindi non a livello di nazioni. E l'Italia anche lì ha, è risultata difficilmente collocabile, perché ci sono regioni all'interno del paese che sono tra i migliori in Europa, lo stesso colore della Danimarca, della Finlandia, dei migliori. Poi c'è una larga parte del paese che è nella buona media europea, Francia, Germania, e poi ci sono alcune regioni invece che sono in uno stato di estremo pericolo, e quindi è difficile dire l'Italia è. L'Italia, se si fa una media, certamente è sottomedia, però se invece si considerano le varie regioni, molte regioni sono sopra media. Ho capito, quindi insomma è anche difficile appunto fotografare la situazione italiana. E voi mi puoi fare un paio di esempi pratici delle vostre attività, perché comunque entrate non solo all'interno dei palazzi ma anche nelle scuole? Allora, noi abbiamo iniziato la nostra attività partendo dalle scuole proprio, e dal 1996 operiamo nelle scuole in modo continuativo. Devo dire che c'è stato un grande cambiamento nei ragazzi che impattiamo dal 1997 ad adesso. Adesso la corruzione è qualcosa che fa parte del bagaglio delle cose da correggere. La corruzione viene molto spesso collegata, come è in realtà, con la criminalità, e quindi qualcosa da sconfiggere, questo in tutte le regioni italiane. Cioè, i ragazzi sono veramente molto in prima fila per questa battaglia. Poi il nostro CPI, che è l'indice di corruzione più noto, che però è un indice di percezione della corruzione, analizza soltanto il sistema politico e la pubblica amministrazione, e lì è un'altra anomalia italiana. Mentre in quasi tutti gli altri paesi europei i cittadini ritengono che il settore imprenditoriale, insieme al settore politico, che è al primo posto, sia tra i settori più corrotti, invece gli italiani ritengono che il sistema imprenditoriale in Italia sia tra i meno corrotti, tant'è che la fiducia nel sistema imprenditoriale dei cittadini è al secondo posto in Europa dopo l'Olanda, per cui è veramente un paese molto contraddittorio. Insomma, delle nostre caratteristiche. Maria Teresa, grazie davvero, diamo il sito per conoscervi meglio e per appunto approfondire le vostre attività. www.transparency.it. Perfetto. Se vogliono invece avere maggiori dettagli sulle attività internazionali, www.transparency.org. Benissimo, ci ritroveremo sicuramente per parlare di queste tematiche che ci piacciono e sono fondamentali. Certo, perché avete detto giustamente, è una cultura la lotta alla corruzione. Eliminare la corruzione fa parte del bagaglio culturale della nazione, non è qualcosa di ineluttabile. E noi ci siamo. Grazie davvero, buon lavoro. Grazie, ciao. Arrivederci. Europost-it. Giovani europei, salvate questo sito tra i preferiti. Volete essere sempre aggiornati sulle gare, le iniziative, gli eventi e le politiche europee per i giovani? Il portale europeo per i giovani è la fonte più autorevole sull'argomento. Disponibile in 24 lingue, è diviso in utilissime sezioni dedicate allo studio, al lavoro, ai viaggi, al volontariato e agli scambi. Nella pagina dedicata alla cittadinanza attiva ci sono le istruzioni per proporre un progetto e ottenere finanziamenti. Nella sezione Info sull'Europa ci sono tutte le risorse online necessarie per conoscere le istituzioni europee, i servizi e le leggi che ci toccano da vicino. Sul sito potrete inoltre trovare i link a tutti i portali internazionali che si occupano di gioventù, tutti divisi per tematiche ed obiettivi. Un consiglio: non accontentatevi della versione italiana. Curiosando nelle pagine degli altri paesi, troverete progetti diversi e farete un utile esercizio linguistico. Che aspettate? Visitate il sito europa.eu/youth. El paro registrado en España marca un nuevo récord y suma en febrero 112.269 desempleados más respecto al mes de enero, con lo que el total de parados se sitúa en 4.712.098, ha informado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El desempleo ha aumentado por séptimo mes consecutivo y en un año el paro ha aumentado en 412.835 personas, el 9,6%. En febrero el desempleo ha subido en todos los sectores y registrado 59.230 parados nuovos en el de servicios. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa. Stiamo andando in Spagna, per parlare di disoccupazione, dati allarmanti usciti in queste ore. Poi ci sono segnali concreti che magari vanno a colpire proprio amici e voci dell'altra Europa e quindi diventano un simbolo di cui vogliamo parlare, perché sono indice di quello che sta accadendo. E la cosa più grave anche è che in questo modo si va a colpire quello che è il mondo dell'informazione, quando un giornale chiude sempre un segnale allarmante. Tony Paul, uno delle nostre voci ufficiali dalla Spagna, lui del quotidiano pubblico di Barcellona, per il quale collaborava per le pagine culturali, tante volte ci ha narrato, ci ha fotografato la situazione spagnola, ci ha mandato un messaggio, ci diceva: lo sapete, chiude il mio quotidiano. E Tony Paul è qua con noi. Ciao Tony. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Cos'è successo, Tony? Buongiorno, come per dire. Infatti immagino che non sia un buongiorno per te e per tutti i tuoi colleghi. No. Comunque, quello che è successo è un fatto che purtroppo era da qualche mese che c'erano indicazioni, si vedevano, no, che le cose non stavano andando bene per il giornale. Comunque, io secondo me la cosa più grave è che in tutta questa crisi la caduta della pubblicità è stata, cioè sta essendo molto dura per il giornalismo, soprattutto per il giornalismo stampato, no? Però il guaio secondo me è che Pubblico in questi tempi di crisi così era l'unico giornale in Spagna che non stava perdendo lettori, anzi ne stava addirittura guadagnando, pochi però ne stava guadagnando. Pubblico è un giornale molto giovane, era da 4 anni e mezzo che è uscito nel settembre del 2007 e si era fatto veramente il suo posto tra i giornali in Spagna, no? Soprattutto era un giornale, è un giornale di sinistra, apertamente di sinistra, e c'erano i lettori così molto molto fedeli, molto fedeli, e purtroppo la crisi, non erano tanti soldi, si vede che per continuare almeno un anno come si stava si volevano circa 9 milioni di euro. Mm-hmm. E io mi chiedo, 9 milioni di euro, se lo traduciamo al linguaggio calcistico, è un giocatore, di Serie A, no? Più certo. O meno, dico, mannaggia. Certo. Adesso quindi ha chiuso l'edizione cartacea, però verrà mantenuta attiva quella online, sì. Giusto? Il sito web si per il momento si mantiene, si sta parlando adesso tra il comitato, dei lavoratori e la ditta, si sta parlando come si può fare per mantenere il sito web. Il fatto è che siamo circa 160 lavoratori e si sta ancora negoziando, c'è un quello che in spagnolo si chiama expediente de regulación de empleo, no? Dove si vogliono mantenere una ventina o poco più di lavoratori, appunto per tirare avanti il sito web. Certo. Però, la scorsa settimana eravamo in Grecia per raccontare un quotidiano che chiudeva, oggi siamo in Spagna, e prendendo anche come metafora di quello che sta accadendo, stavo leggendo i dati della disoccupazione cresciuta nuovamente in febbraio e si è concentrata sulle persone superiori ai 25 anni con il 2% in più di nuovi disoccupati, mentre tra i minori di 25 anni la disoccupazione è cresciuta ancora di più, oltre il 5%, e quindi sei giovane, già fai fatica a trovare un lavoro, ma questo lavoro quando ce l'hai rischi anche di perderlo. Ecco, si fa fatica a trovare, e poi quando soprattutto c'è sempre questo rischio di perderlo. Una volta, dicevi, qualche anno fa, si diceva, se c'avevi un contratto indefinito, praticamente ce l'avevi fatta. Adesso questo non significa più niente. Adesso c'è stata, poco fa, si è approvata una riforma laborale, che vabbè, ci sono stati la settimana, due settimane fa c'è stata la, ci sono state grandi manifestazioni in tutta la Spagna, per, perché appunto si vede che diventa una cosa molto fragile, il posto di lavoro, quindi soprattutto per i giovani, ma poi anche per quelli di una certa età, che non hanno più questa sicurezza di tanti anni al lavoro, così non ti dà più questa sicurezza, sai? Certo. Tony, dalla Spagna è nato il movimento di protesta lo scorso anno e in questi giorni, di nuovo, soprattutto all'interno delle università, ci sono nuovi movimenti. Cosa sta accadendo e soprattutto quali sono le previsioni, se si possono fare? Vabbè, quello che sta accadendo è appunto che queste soluzioni che si stanno trovando, soluzioni tra virgolette, di ritagliare il presupposto, adesso in questi giorni è stato il caso di educazione dell'università e delle scuole, perché cioè, a Valencia è cominciato perché c'è stato un istituto, cioè un liceo, una scuola che non avevano, era da giorni che non avevano il riscaldamento, è stata la goccia, diciamo, no? che ha fatto versare il bicchiere. Sì. E questo era un istituto. Poi ci sono state le cariche poliziali sproporzionate che si sono viste dappertutto, però il fatto è sempre questo, che il ritagliare i presupposti di educazione, di sanità e così fa molto male, molto male, e la gente, il movimento Indignados logicamente si vede di nuovo a qualsiasi punto che si parla di sempre delle stesse soluzioni, escono di nuovo alla strada, no? si manifestano. Mm-hmm. La cosa sta male così, loro vogliono far vedere, è un movimento molto eterogeneo, cioè ci sono tutti, in questo caso c'erano tantissimi manifestanti, bambini, adolescenti, no? Studenti di scuole, così, no? Certo, quindi comunque è una voglia di cambiare le cose. Tra l'altro Giorgio De Luca, che è dall'altra parte del vetro, che è il mio spagnolo, mi dice che appunto quando dici presupposti sono finanziamenti, sono i soldi che vengono appunto dedicati alla cultura o alla sanità, questo è il termine per capire meglio anche appunto quello che sta accadendo. Tony, grazie davvero, insomma in bocca al lupo a te e a tutti i tuoi colleghi, sicuramente la creatività non vi manca, e la creatività in tempo di crisi è sempre è un bel aiuto e può essere via, non tanto una via di fuga, ma una via per reinventarsi soluzioni e ritrovare magari nuove forme di lavoro, di collaborazione. Ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa. Ciao e grazie. Ciao, grazie, Tony. Ciao, ciao, ciao. Europost-it. Greenboard, il social network che ama la terra. L'ecologia non è più un optional, deve diventare un valore universale. I giovani sono i protagonisti della rivoluzione verde che sta investendo l'Europa. E per imparare gli uni dagli altri, con il sostegno finanziario della Commissione Europea e della German Environmental Foundation, hanno messo in piedi un social network per ambientalisti. Si chiama Greenboard ed è definita la rete dei giovani amanti della natura. Cercate informazioni, consigli pratici e idee da replicare. Mettetevi in contatto con altri ambientalisti attraverso la chat e il forum. Pubblicizzate le vostre iniziative e raccogliete fondi e volontari per creare un mondo migliore. Per farvi un'idea del dinamismo dei giovani ambientalisti di Greenboard, leggetevi il blog e fatevi un profilo su eurotop.ning.com. Buona Europa verde a tutti! È un peccato non poterlo vedere, ma è anche il bello della radio, che queste cose si possono immaginare. Quello che state ascoltando è un tentativo di karaoke in un parco di Berlino, ed è questa la storia che vi vogliamo raccontare per proporvi un'altra Berlino, e lo facciamo insieme ad Andrea Daddio, giornalista e blogger romano a Berlino da un paio d'anni. Ha un blog che si chiama Berlino Caccia e Pepe, www.zingarate.com/network/Berlino. Ciao Andrea, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Allora Andrea, raccontaci tu quello che abbiamo ascoltato, perché è una bella storia quella che c'è dietro a questo bizzarro karaoke. Sicuramente l'atmosfera che si crea ogni domenica pomeriggio a Berlino quando c'è bel tempo. Sì. Adesso ancora un po' troppo presto, bisogna aspettare almeno un paio di settimane prima che ci si ritrovi in maniera del tutto spontanea in un angolo del Mauerpark, proprio sotto i passi da dove prima passava il muro, dove viene un irlandese con due grosse casse attaccate alla bicicletta, un grande ombrellone. C'è una sorta di arena che si è creata, che hanno creato tempo fa all'interno del parco, per cui è proprio un palco preciso per un tipo di esibizione come il karaoke, e chiunque voglia cantare sale sul palco e aspetta l'inizio della musica. Con computer c'è, cioè, questo irlandese Joe Archibald, che in verità è un nome d'arte perché si chiama Gareth Lennon, che mette le musiche, e tutto il resto del pubblico seduto sugli spalti applaude a prescindere dalla paura del cantante. È una sorta di grande show in cui è premiato il coraggio di esibirsi più dell'esibizione stessa, e quindi diventa una grande festa. Okay. Ma quindi è diventato un appuntamento classico per i berlinesi, cioè questo spazio occupato, diciamo, da questo karaoke improvvisato, ormai è una meta anche dei turisti o solo degli abitanti di Berlino? No, è anche dei turisti. Ormai ogni volta che uno si trova a Berlino non può non andare a karaoke, perché riesce a vedere veramente tutta la gioventù, tutta la creatività di cui si parla tanto e con cui viene mitizzata, forse anche sbagliando. Berlino si ritrova là la domenica ed ormai è un tale successo che, anche andando semplicemente al Mauerpark, al mercatino che sta là accanto, vi si viene attirati naturalmente da questo rumore, dalla musica che parte, dagli applausi che stanno là accanto, e quindi non si può non riuscire a non andarci. Ecco, bello questo accenno che hai fatto a Berlino. Mito o falso mito? Nel senso che arrivano mille letture diverse di Berlino, la città più viva d'Europa, la città dei giovani, la città dove tutto è possibile, la città dove la creatività può diventare professione, dove la creatività può diventare veramente realizzazione di se stessi. Tutto ciò è vero? Secondo me è sicuramente semplice avere delle idee e cercare di metterle in pratica. Quindi, tant'è che qua adesso è, diciamo, la capitale delle start-up, tantissime nuove attività sono partite, è facile entrare in network di persone che hanno voglia di provare, magari hanno qualche soldo da parte e vogliono iniziare una nuova attività. Allo stesso tempo, se si viene qua senza una grande preparazione del tedesco, senza un po' di soldi da parte e la pazienza di pensare che per trovare un lavoro a volte ci vuole anche un anno e mezzo, un lavoro qualificato che non sia quello in ristoranti o un call center, allora sì, ce la si può fare, però bisogna avere tanta pazienza e sì, c'è tanta creatività, ma c'è anche tanta gente che poi torna nei propri paesi d'origine perché non ce l'ha fatta, perché alla fine c'è una tale concorrenza ed è diventato un tale mito Berlino, per cui ci sono così tanti ragazzi come te, come me, qualificati, che ci provano e a volte solo qualcuno ce la fa. Ecco, tu hai scelto Berlino perché? Io ho pensato, stavo lavorando in Italia, ho pensato che una bella esperienza all'estero sarebbe stata utile per il mio curriculum, però ero curioso di conoscere una città che ormai 3 anni fa era già sulla bocca di tutti, ma ancora aveva qualche margine da sfruttare. Penso che qua sarebbe stato bello parlare di sia di politica, perché siamo comunque al centro dell'Europa, con l'apertura dell'Europa dell'Est è diventata ancora più centrale la posizione anche logistica di Berlino, sia dal punto di vista culturale, visto tutto il fenomeno, tutti quei giovani di cui parlavamo prima, che tante volte non sono creativi che vogliono creare una startup, ma sono ragazzi che vogliono fare dell'arte, vogliono esporre o vogliono semplicemente acculturarsi di più, a cercare di vedere cose nuove che altrove non riuscirebbero a vedere. Ecco, hai anche citato il discorso europeo, Berlino capitale della Germania, ma anche cuore pulsante dell'Europa. Viene respirata lì l'Europa? Come viene concepito il concetto d'Europa, secondo te? Cioè, che percezione hai? A livello così umano ci si sente in una città multiculturale, e quindi l'idea che ci si trova in una città che di per sé è già un emblema di tante altre città nel mondo, o un piccolo concentrato di com'è la vita già a New York o a Londra, però magari con un passaggio successivo, visto che qua c'è anche una grossa immigrazione, a volte cioè una grossa immigrazione turca, curda, e quindi la vita quotidiana è caratterizzata non da un'immigrazione generale, ma anche da un confronto diretto con delle grosse minoranze, che di per sé sono le stesse che magari un giorno si troveranno in tante altre città del mondo. Quindi ci si sente all'interno di un modello che poi si ripeterà probabilmente anche altrove in tempi brevi. A livello invece politico, io penso che tanti giovani stranieri che stanno qua spesso non ragionano sull'aspetto politico, si fermano a quello culturale e quindi non ragionano mai in termini di sì, Berlino fra poco diventerà la capitale d'Europa, quindi è normale tutto il processo di cambiamento anche urbanistico che la città sta vivendo, e non è semplicemente un abuso da parte dell'amministrazione, anche se poi in verità vedendo tutti gli scempi urbanistici che fanno ti ritrovi a pensare, ho capito, va bene, il Berlino deve cambiare perché è la capitale d'Europa, però davvero è disposta a cambiare così tanto in nome di questo cambio di immagine, di identità all'esterno. Certo. Berlino Cacio e Pepe è il titolo del tuo blog. Di cosa scrivi, di cosa racconti? La tua Berlino? Sì, in verità scrivo di qualsiasi cosa accade a Berlino, dagli eventi culturali a racconti di vita quotidiana con i tedeschi o con i berlinesi, cerco di dare un po' di consigli e proprio articoli di veri utili, nel senso gente che viene qua e non sa come fare l'iscrizione all'anagrafe, non sa dove cercare una scuola di tedesco, non sa dove richiedere la Steuer Nummer, cioè il numero identificativo per pagare le tasse, il codice fiscale di qua. Tanti piccoli aiuti che cerco di dare a italiani, visto che il libro, il blog è in lingua italiana, che arrivano qua e a volte vengono senza essersi preparati abbastanza, perché quello che è importante dire è che quando si viene a Berlino un po' di tedesco bisogna già saperlo. Mm-hmm. Si può sopravvivere con l'inglese, però il tedesco è fondamentale quando si vuole veramente integrare, ma anche quando semplicemente si vuole provare a partire con qualcosa che sia di più del lavapiatti, del call center o di questi lavori in cui effettivamente penso che nessuno parti. Basta, certo. Neanche se è davvero disperato. Certo. Andrea, mi chiedono se anche tu hai cantato al karaoke? No, avrei il coraggio di farlo, ma sono troppo stonato. E anche se nessuno giudica, per me è abbastanza. Vabbè, però dai, già che sei lì, non è che poi hai paura di finire, che ne so, su YouTube, no? Beh, in realtà c'è un video di un ragazzo italiano che cerca di cantare a volare e ha fatto un dettagli, ha suonato così tanto, ma parlava così male sia il tessuto, perché andava nell'introduzione, che l'inglese, che è l'unico caso in cui ho visto qualcuno essere un pochino preso in giro, quindi un po' ogni tanto un timore, sì, nessuno prende in giro nessuno, questa è la cosa bella, nessuno giudica, però anche se devo prendere solo una piccola minoranza che riderebbe di me, un po' mi piacerebbe. Leggevo però che Gianna Nannini ha partecipato a questo karaoke, pare almeno, è leggenda metropolitana. No, è vero, c'è anche un breve video su YouTube, non ha cantato direttamente, è salita sul palco, ha intonato un inizio di canzone per 10 secondi e poi è ritornata in mezzo al pubblico, penso che abbiano riconosciuto il 5% delle persone che stavano là, neanche forse tutti gli italiani, però è storica. Poi lei andò là proprio all'inizio del karaoke, nel 2009. L'ha battezzato. Grazie davvero Andrea, ricordiamo www.zingarate.com/network/Berlino, ma lo trovate già sulle nostre pagine in Facebook e su Twitter. Grazie, buona Berlino, ciao Andrea. E grazie a voi per essere stati in nostra compagnia anche in questa puntata. Un grazie a tutta la squadra, Margherita Ina e Viola Frifa, che con me hanno scritto la puntata, Giorgio De Luca oggi in assistenza, Carmelo Lauricella la parte tecnica. Radio24.it, adesso il GR, poi il Gastronauta. Noi ci ritroviamo qua sabato prossimo con una puntata speciale, musica dal vivo, si va in Irlanda. Ciao!